La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio di essere in ascolto, di tutti coloro anche che ci scaricano in podcast. E oggi, che è il penultimo giorno di campagna elettorale, deliberatamente, come abbiamo fatto in tutte queste trasmissioni nelle settimane più accese della campagna elettorale, ci occupiamo di un tema politico e istituzionale molto rilevante, ma senza entrare nel merito delle polemiche della campagna elettorale. Altre trasmissioni hanno invitato tutti i rappresentanti delle forze politiche in termini bilanciati. Noi abbiamo deciso di occuparci di nodi rilevanti comunque del paese, ma di lasciare alla vostra facoltà di farvi le vostre libere intenzioni di voto o di non voto, di astensione, in altra trasmissione, anche perché noi abbiamo poi poco tempo. Oggi lo dedichiamo a una questione centrale di cui spesso si finisce per parlare solo per alcuni temi, perché ha accettato di essere nostro ospite, e io le sono molto grato, il ministro della difesa del nostro governo, onorevole Roberta Pinotti. Grazie, buon pomeriggio di essere grazie, qui con noi. Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, io al ministro Pinotti faccio una sola domanda obbligata per dovere di cronaca, che riguarda le elezioni europee, ed è la richiesta del suo giudizio, la sua opinione allo stato attuale della campagna sul fatto se ci possano essere o meno, e di che tipo, nel caso in cui la risposta fosse sì, delle eventuali conseguenze del risultato elettorale. Sappiamo tutti che un risultato elettorale in cui la vera posta, quella principale, è innanzitutto il vantaggio o meno in quanti punti contenuto o meno del PD sul Movimento 5 Stelle, che cosa può derivare alla tenuta del governo, all'efficacia del suo programma annunciato di riforme, da un risultato elettorale delle europee in cui il premier Renzi dice sempre non si vota per il governo, però le conseguenze politiche ci possono essere. Lei che pensa, signor Ministro? Penso che non si voti per il governo, non è un referendum sul governo, sono elezioni europee. C'è una modalità un po' tutta italiana di considerare ogni momento elettorale tutto autocentrato. In realtà è un voto importante perché è un voto per l'Europa. Poi non mi nascondo, perché faccio politica da un po' di tempo, che ovviamente il governo può avere più forza da questo risultato se è un risultato positivo, ma per il resto il programma che abbiamo, le cose che vogliamo fare per questo paese, le continuiamo a fare a prescindere da quelli che sono i risultati. Poi speriamo in un buon risultato, ma da questo punto di vista non stiamo votando per le politiche italiane. Senta, veniamo subito al punto. Lei è diventato ministro ereditando un quadro, cioè quello di una riforma profonda dell'intero strumento della difesa italiana, che era stato avviato dal ministro Di Paola, un militare, un ministro tecnico nel governo precedente, ed era una riforma che, per chi segue le questioni della difesa italiana, aveva un solo torto, quello di essere troppo rinviata nel tempo dalla politica, perché avevamo un modello di difesa con 190.000 uomini che non ci potevamo permettere, questo era evidente da anni. Con il ministro Di Paola e il Parlamento si arriva all'approvazione di una riforma, anche quella molto diluita nel tempo, perché l'obiettivo era di arrivare al regime al 2024, quindi un periodo lungo, per affrontare alcuni problemi, passare da un modello di 190.000 uomini sommando esercito, aeronautica e marina a 150.000, più equilibrato ma soprattutto più efficiente, perché quando si chiede alla difesa di tagliare, e lo posso capire poiché tutte le poste del bilancio devono essere riviste, il contenimento della spesa e così via, però si dimentica che la nostra struttura di spesa della difesa è più o meno lo 0,9% del PIL, la funzione difesa ristretta, ma di questo il 70% va alla retribuzione del personale, solo il 18% va agli investimenti, solo il 12% all'esercizio. E state attenti, per voi che state a casa ad ascoltare, il 12% di spese di esercizio significa che bisogna risicare tutto, perché i mezzi, i dispositivi, le piattaforme eccetera eccetera, mandando noi i nostri uomini poi in teatri operativi molto impegnativi, è una cifra così bassa che spesso poi si deve fare una riflessione su quanto davvero li proteggiamo. E purtroppo abbiamo avuto anche molti caduti nelle missioni internazionali dei nostri uomini che portano la divisa. Allora, la prima domanda che le faccio è: quella riforma che ha ereditato come ministro della difesa è una riforma da accelerare? Dove, in che termini, con quali tagli aggiuntivi? Quando lei è diventato ministro, che obiettivo si è prefisso? Ha ragione lei quando dice si è arrivati anche tardi a fare quella riforma, cioè erano anni in cui si sentiva questa esigenza comunque di arrivare ad uno snellimento dei numeri per avere comunque uno strumento militare efficiente ed efficace. E quindi io, nel mio precedente ruolo, quindi da parlamentare, ho appoggiato la riforma di Paola e sicuramente l'ho ritenuta necessaria. Oggi siamo in fase, diciamo, dei decreti attuativi, quindi stiamo cominciando a dare attuazione, e io mi auguro, di poter anticipare, perché la data del 2024 è una data lontana, di poter anticipare quell'equilibrio che noi dobbiamo dare. Giustamente noi passiamo da 190.000 a 150.000 per quello che riguarda il personale militare, ricordo che dalla difesa dipende anche un numero un po' meno di 30.000 di personale civile, noi scenderemo a 20.000, quindi questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Ovviamente essendo persone che lavorano, noi abbiamo bisogno di alcuni strumenti anche per pensare che possa esserci un defluire delle persone o in altre amministrazioni, e noi stiamo lavorando sia con la giustizia, sia con i beni culturali, con tutte le amministrazioni che possono avere bisogno di personale sulla base della volontarietà del passaggio possibile, o anche come prevede adesso la riforma della pubblica amministrazione che sta facendo il ministro Mantia e che sarà presentata a giugno, la possibilità comunque di anticipare delle uscite o anche comunque di fare dei passaggi sulla base delle esigenze dell'amministrazione. Questo è un punto, ed è un punto su cui noi continuiamo, perché quello era ineludibile. Quando lei però mi domanda quali obiettivi mi sono data io e perché ho lanciato l'idea del libro bianco e ho messo l'accento su questo tema della costruzione della difesa europea e diciamo dell'esigenza di immaginare quali sono gli scenari futuri, quali sono i bisogni futuri, anche ragionando su una, secondo me, una grande incompiuta, cioè Andreatta, ministro, aveva avuto un'intuizione importante, il tema dell'interforze. Oggi l'interforze esiste perché è norma di legge, ma poi spesso nella realtà delle cose ancora le forze armate vivono in modo molto diviso, poi viene fatto sempre questo esempio, anche le scuole di lingua addirittura sono divise. In realtà tu ormai devi ragionare di missioni militari, non solo di missione di forza armata, ma sono le forze armate nel loro complesso che devono affrontare una missione, e da questo punto di vista intanto io vorrei rendere non un elemento burocratico di facciata l'elemento interforze, ma invece renderlo effettivamente una modalità di gestione delle operazioni e di gestione complessiva delle forze armate. L'altro elemento, il tema della difesa europea, visto che parliamo anche di un momento in cui stiamo andando alle elezioni europee, tanto evocato ma poi difficilmente declinato. Perché? Perché gli strumenti che noi abbiamo oggi sono strumenti molto deboli da questo punto di vista. Per fare un passo avanti effettivo ad una difesa europea, noi dovremo utilizzare molto di più le cooperazioni rafforzate, perché l'immaginare che tutti i 28 paesi possano fare un passo avanti insieme oggi è idealmente molto bello, ma realisticamente non realizzabile. Allora, da questo punto di vista, quello che è mancato fino ad oggi, al di là diciamo degli strumenti deboli, che ne so, le missioni militari europee non sono finanziate con budget ad hoc, ogni singola nazione le finanzia, e quindi se tu costituisci dei battle group europei e nel caso esista in quel momento una nazione che li guida, che non ha le risorse, non può, decide che non è una missione alla quale può partecipare, tu di fatto non hai lo strumento europeo per intervenire. Quello che è avvenuto per esempio sulla missione in Centrafrica, missione dell'Unione Europea, voluta fortemente dalla Francia, decisa però dall'Unione Europea, il battle group che in quel momento vedeva la Grecia diciamo essere protagonista della direzione di questo battle group, non partecipa perché le condizioni non lo consente. Non lo consento. Quindi da questo punto di vista esistono anche i meccanismi da mettere a punto, e sono quelli che noi nel semestre europeo vorremmo cominciare a cambiare, però io sono convinta che ci voglia soprattutto una decisione politica per far cambiare passo alla difesa europea. E questo vediamo nel semestre di presidenza italiana, magari ci auguriamo che anche lei possa direttamente fare dei passi avanti concreti. Meno allora convegni, meno declamazioni, sì, esatto, belli, ma passi avanti concreti. Su modalità, diciamo, ci sono alcune questioni operative che noi possiamo mettere insieme. Pensiamo al trasporto aereo, è molto costoso, nessuna nazione può da sola immaginare, esatto, di gestire il fatto di questa proiezione e quindi di avere un trasporto aereo autosufficiente. Quello per esempio è un assetto che noi possiamo mettere insieme. Allora adesso noi abbiamo 60 secondi interruzione per l'informazione stradale che è dovuta, e poi torniamo con il ministro Pinotti della difesa a parlare appunto dell'ammodernamento, dell'accelerazione, dell'efficienza, delle cooperazioni europee e anche dei tagli che sono richiesti anche alla difesa. Tra poco un minuto di strada. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati dagli studi Radio 24 di Milano, e ospite oggi nella nostra trasmissione il ministro della difesa Roberta Pinotti. Senta signor ministro, molte forze in Parlamento in questa campagna elettorale le hanno chiesto: ma iniziamo a tagliare di più gli F-35 e così via, eccetera eccetera. Lei ha risposto: no, abbiamo bisogno di una riflessione organica, il libro bianco. Questo libro bianco, che nella tradizione degli altri paesi avanzati esistono, i libri bianchi della difesa sono quasi uno strumento ordinario di riprogrammazione, però sono strumenti del governo, non del Parlamento. Il libro bianco di cui parla lei è uno strumento del Parlamento o del governo? È uno strumento del governo, ma la mia intenzione è quella di fare passaggi parlamentari su tutte quelle che sono le decisioni che vengono assunte. Le spiego perché. Se c'è un problema che questo Paese sta vivendo su tutto il dibattito che riguarda i temi della difesa, è il fatto che il mondo della difesa, che tra l'altro è un mondo che funziona bene, e all'estero, quando noi siamo in missione, non solo ci riconoscono una grande professionalità, ma quando abbiamo un comando ci chiedono sempre di tenerlo. Succede in Libano, succede in Kosovo. Questo per dire che abbiamo ottime professionalità e una capacità, diciamo, di intervenire per stabilizzare, anche con una capacità di entrare in sintonia con la popolazione che ci è riconosciuta a livello internazionale. Poi però, quando si parla di difesa, si è tornati a dire, si parla solo del taglio, come se non fosse una necessità e se non fosse anche uno degli elementi con cui il Paese assume un rilievo internazionale. No, quello che dico io, allora, è che la politica, poi mi scusi, la politica deve decidere, perché se taglia non possiamo mandare migliaia e migliaia di uomini in teatri operativi delicati. Dato che secondo me il fatto di coinvolgere l'opinione pubblica, cioè il mio obiettivo, lei mi diceva: ma lei da ministro che cosa vuole fare? Gli ho detto alcune cose che sono tecniche, ma io vorrei darle anche un obiettivo politico. Io vorrei spiegare di più a questo Paese a cosa serve la difesa e perché serve, e in questo senso a me interessa coinvolgere e spiegare in Parlamento. Cioè non voglio, certamente il governo deve decidere, deciderà e porterà le sue decisioni, ma non da però solo. È molto importante che ci sia una comprensione. Allora, da questo punto di vista, ad esempio, quello che si è deciso quest'anno e che ho deciso con i capi di Stato Maggiore è un taglio sugli investimenti. Perché si poteva fare? Era un taglio possibile senza ovviamente mettere in crisi quella che era la difesa del Paese. È un taglio che abbiamo potuto fare quest'anno perché avevamo un obiettivo importante, che era quello degli 80 euro, un obiettivo che ci siamo dati con il governo. Ma quello che io ho chiesto al governo, e torno all'analisi giusta che lei ha fatto all'inizio, è che però quest'anno non ci sia nessun taglio sull'esercizio e ci sia un'attenzione a un problema del personale, perché è vero che i costi del personale, come dice lei, raggiungono quasi, sono sul 68%, quindi sono livelli altissimi, ma poi esiste il fatto che da 5 anni, come in tutta la pubblica amministrazione, non ci sono, diciamo, modifiche stipendiali. Ma in un'organizzazione dove tu in 5 anni puoi passare a prendere, addirittura a fare 2 salti e quindi avere il comando di situazioni anche complicate, il fatto che tu non abbia avuto nessun riconoscimento economico diventa un problema. Allora io quest'anno ho detto: sugli investimenti possiamo in questo momento fare una riduzione, che non vuol dire bloccarli, ma vuol dire diluire alcune cose, mentre sull'esercizio e sul personale non si no. Tratta, e questa è una decisione della politica ed è una decisione, diciamo, che ho assunto ovviamente confrontandomi con chi gestisce le forze armate. Allora, il libro bianco perché? Perché anche per i sistemi d'arma è giusto ragionare su a che cosa ci servono e perché, sulla base di quali scenari futuri, cioè noi quali immaginiamo possono essere i rischi e le minacce e su quali teatri immaginiamo di doverci proiettare. Esatto, il Mediterraneo, i Balcani, perché è di lì che poi bisogna dedurre le risorse, i velivoli, gli strumenti, e questa è una maniera logica di fare. Prima se no noi giochiamo ai dati. Esatto, le devo fare una domanda obbligata perché il tempo corre. Sugli F-35, lasciamo perdere come la penso io, alcuni obiettano: ci sono paesi NATO che hanno scelto una sola linea di velivoli, l'Eurofare del Typhoon. Noi invece abbiamo scelto i Typhoon, l'Eurofighter, quindi, e anche l'F-35. Altri dicono: ma è come la Svizzera ha appena votato contro i Saab Gripen, caccia avanzati, perché costano troppo, perché non possiamo fare anche noi questa roba degli F-35? Lei che risponde in questa ottica, appunto, di programmazione? Perché non possiamo fare, mi scusi, non ho sentito. Perché non fare la stessa cosa che hanno fatto i tedeschi senza F-35? Cosa si risponde a questo? Diciamo che gli Eurofighter e gli F-35 rispondono a 2 esigenze diverse. Gli Eurofighter hanno, diciamo, fanno difesa aerea, sono intercettori. Gli F-35 sono invece quelli che riescono a intervenire direttamente in a fare, diciamo, difesa nel caso di un teatro ed intervenire se tu hai degli obiettivi che devi disinnescare. Quindi hanno una funzione di attacco al suolo che non hanno invece gli Eurofighter. In origine si pensava che l'Eurofighter potesse anche avere con la Tranche 3B, diciamo, una capacità nuova e diversa, che è quella, quindi, una capacità di attacco al suolo. Ma invece è molto limitata. Certo. No, questa tranche non ci sarà, nel senso che è molto costoso immaginare che possa esserci, quindi di fatto anche la Germania, che sembrava essere interessata, in questo momento sta decidendo di non procedere da questo punto di vista. Quindi tutto poteva essere deciso, ovviamente, cioè, tutto può essere considerato. Rispetto a queste due funzioni però i due aerei sono diversi, e così come gli Eurofighter, che è un ottimo velivolo, è però un velivolo che, diciamo, la cui costruzione sta avvenendo da alcuni anni ed ha una certa vita che sarà per i prossimi 20 anni. E secondo lei qual è? Gli F-35, a detta di tutti i tecnici, perché poi tutti diventano esperti di aerei. Sì, quelli tutti dicono, diciamo, che non volano. Cerco di ascoltare, cioè, poi quelli che sono, non è che abbiamo un'aeronautica dove non esistono ingegneri aeronautici che sappiano anche darci una valutazione. Loro cioè, tutti dicono sarà l'aereo del futuro, poi qualcuno dice, ho sentito che dicono non funziona. È vero. Ma secondo lei qual è? Di vista, però mi chiedo come mai gli americani ne ordinano 2400, certo, come mai i giapponesi. Però questo non convince le obiezioni. Secondo lei, come ordine di grandezza rispetto ai 90, devono essere 135 che le chiedono ancora di tagliare, ma per non pregiudicare la funzione, questa operatività di cui ha spiegato che sa che serve a quello col velivolo, a quanto si può arrivare secondo lei nel tempo ragionevolmente? Questo lo dobbiamo decidere sulla base di quanti teatri noi pensiamo di doverci proiettare, sulla base dello stato del nostro paese e immaginando comunque che tipo di difesa vorremmo avere e che capacità vorremmo mettere a disposizione anche secondo delle me, alleanze. Questa è la risposta seria. Se l'Italia decide di non voler avere più velivoli interoperabili NATO per queste missioni, lo fa, ma cioè, poi per favore non mandiamo i nostri nelle missioni. Questa è la decisione, deve sapere, se no altrimenti si fa un po' di demagogia. Un po' di demagogia, e sulla pelle di chi porta la divisa, secondo me è meglio evitarla. Le F-35 sono diventati cattivi. Esatto, secondo me è meglio evitarla, la demagogia. Però è responsabilità di governo, al di là del rispondere. Io voglio spiegare all'opinione pubblica, però poi le decisioni hanno ripercussioni non solo sul prossimo anno, sulle prossime elezioni, hanno ripercussioni per moltissimi anni. Allora, signor Ministro, io la ringrazio. Grazie del tempo, il tempo purtroppo è volato, speriamo di riaverla ai nostri microfoni, continuate con Radio 24 e appuntamento con me a domani.